A bordo campo di Dario Ricci. No, noi Lega, noi i tra virgolette razzisti, sai con chi collochiamo? Con i rappresentanti diplomatici dei paesi dell'Africa subsahariana, sullo Ius Sol. Vogliamo capire che cosa serva questa riforma dell'Ius Sol. Se servisse e se fosse, voglio dire, se ci convincono, noi siamo pro. Siete disponibili, mi ha detto, a valutare lo Ius Soli. Questa è una notizia senz'altro detta da Mario Borghezio. Giusto, Borghezio l'ha detta questa cosa, che potete valutare lo Ius Soli. A verificare se per gli africani lo Ius Soli è un problema. Io penso che non lo sia. E allora, l'avete sentito, se è disposto addirittura l'europarlamentare leghista Mario Borghezio, così come ha dichiarato qualche giorno fa la nostra Roberta Giordano durante Effetto Notte, a ragionare sullo Ius Soli, vuol dire davvero che una piccola grande rivoluzione è in atto o quantomeno può essere attuata. Ebbene, cos'è lo Ius Soli? Semplificando, il riconoscimento della cittadinanza italiana con i conseguenti diritti a tutti coloro i quali nascono sul nostro territorio nazionale, prescindendo dalle loro origini etniche e nazionali. Ebbene, perché ne parliamo oggi a bordo campo? Perché questo non è solo un tema politico, è un tema sociale ed è anche un tema sportivo. E abbiamo scovato una federazione in Italia che di fatto il problema dello Ius Soli lo ha già affrontato e risolto, perché la Federazione Nazionale di Hockey Prato di fatto ha recepito questo Ius Soli. Da quest'anno i giocatori stranieri nati sul territorio italiano sono considerati per la federazione italiani, liberi dagli ostacoli di tesseramento e dal vincolo che impone alle società di schierare al massimo 3 stranieri in partita. Una piccola grande rivoluzione di cui parliamo oggi col nostro primo ospite, il presidente della Federazione Hockey Prato, Luca Di Mauro. Benvenuto, presidente, a bordo campo. Grazie. Presidente, allora, come siete arrivati un po' alla chetichella, diciamo, a questa piccola grande rivoluzione? Perché il tema era già stato abbozzato nel programma della ministra Josefa Idem, che purtroppo, diciamo, è naufragato con la sua esperienza ministeriale. Però voi siete andati avanti ed oltre, direi. Assolutamente, fra l'altro, diciamo, questo fumo che si è alzato, diciamo, per noi è stato imprevisto. Noi l'abbiamo fatto sinceramente perché crediamo, diciamo, che riconoscere a chi nasce in Italia la possibilità di essere trattato come un cittadino italiano, per noi, insomma, è una cosa abbastanza tranquilla. Non siamo posti di problemi, diciamo, che qualche politico si sta ponendo in ogni caso. Chi nasce in Italia, per noi italiani, in ogni caso, anche perché è di formazione italiana. Cioè, non sono gente che si è formata logisticamente in altri paesi, è nata in Italia, si è formata in Italia, per noi figli effetti è italiano e quindi come tale li trattiamo. Tra l'altro, presidente, voi siete uno sport che tradizionalmente affonda nelle proprie le proprie radici nella cultura anglosassone, nei paesi del Commonwealth, quindi immagino, ammetto di non essere un esperto, uno sport permeato di atleti pakistani, indiani, eccetera eccetera, no? Assolutamente, anche perché la cultura e la filosofia di questi paesi, soprattutto indiani e pakistani, che qualche anno fa primeggiavano nel mondo, adesso non più, però diciamo, la cultura loro sportiva è proprio impregnata in questo senso e si sposava bene proprio con l'atleta pakistano-indiano, perché la filosofia del nostro gioco è una filosofia di gioco di abilità. Cioè non è previsto uno scontro fisico, cioè si supera l'avversario con abilità e quindi chi meglio di loro possono incarnare, diciamo, questa filosofia del gioco. Ecco, problemini burocratici ne avete dovuto affrontare, di che tipo però? Ma i problemi burocratici in questo senso, no? Tra l'altro fino adesso, come è previsto, diciamo, dalle normative CONI e Ministero degli Interni, in Italia possono giocare gli extracomunitari con un contingentamento annuale, cioè noi nelle nostre squadre italiane più di 3 non possono giocare, quindi questo era normalmente. Noi in questo modo succedeva che molti ragazzi, come diciamo prima, in Italia non potevano poi essere schierati. Politicamente no, non abbiamo avuto, diciamo, problemi in questo senso, anche perché noi abbiamo agito autonomamente, perché il nostro consiglio, che ha deliberato all'unanimità, mi piace questo ricordarlo, lo ha fatto, diciamo, proprio ritenendo una cosa giusta e praticabilissima, ma problemi politici non abbiamo avuto in questo senso, non ci ha richiamato nessuno e quindi insomma per noi va bene in ogni caso così. Ecco, presidente, quanti sono i giocatori coinvolti da questa nuova normativa? Almeno, da quelli che ci risultano un centinaio circa, 80-100, ma c'è da dire che mi riferisco poi all'onorevole Berghese, non sono, lui dice, gli africani, ma per me non sono gli africani, quantomeno con i quali viene dal continente africano, cioè sono sì, vabbè, Borghezio c'ha un concetto un po' vago, insomma, diciamo, certo. Mi permetto di dirlo io, insomma, su. Esattamente, cioè una cosa, diciamo, perché nasce in Italia, da qualsiasi nazione provenga, ha questo diritto, diciamo, di essere considerato italiano, quindi assolutamente. È chiaro, lo ius soli è tema che riguarda soprattutto gli atleti extracomunitari, extra UE. Certo. Ebbene, allora, ospite, sentiamo pure la voce di uno di questi protagonisti. Allora, saluto Yassir Nasrallah, 18 anni ad aprile, se non sbaglio, Yassir, che è nato ad Este, da famiglia marocchina, e che è un promettente centrocampista dell'HC Rovigo. Giusto, tutto giusto, Yassir? Si spera. Ecco, bravo. Beh, quello tocca a te sul campo, confermarlo. Sì, dai. Senti, Yassir, insomma, una normativa che quantomeno tra i tanti vantaggi concede a voi giocatori di origine extracomunitaria di giocare anche un po' di più, perché quantomeno assimilati agli italiani non siete costretti a fare il classico turnover, perché molte squadre hanno più di un giocatore straniero, e soprattutto potete esprimere al meglio le vostre qualità in campo, no? Sì, finalmente possiamo giocare senza dover far sempre dei cambi, possiamo giocare, dare il 100% di noi senza avere la preoccupazione di dover dare il cambio, di dover uscire ogni volta, senza insomma avere quel pensiero fisso di dover abbandonare il campo, magari non sei in giornata e allora preferisce l'allenatore della tua squadra mettere dentro un altro che te. Certo, perché comunque se no stavi nella quota degli extracomunitari prima, insomma. Sì, perché c'è una quota massima, ci sono massimo di 3 stranieri in campo, quindi io gioco anche in una squadra in cui stranieri ce ne sono abbastanza, quindi c'è sempre stato questo piccolo problemino. Però con questa nuova riforma di Ussoli si sta facendo una piccola rivoluzione, diciamo. Ma poi tra l'altro, al di là di quello che accade in campo, Yassir, forse ci si sente ancor più italiani, no? Anche se per voi non credo da certo, che... Dal punto di vista politico, sì, perché non sei più discriminato, diciamo, tra virgolette. Non sei più discriminato, ti senti sempre più vicino a questo paese, secondo me. Senti, ci vorrebbe la maglietta della nazionale per completare il tutto, no? Nazionale, grande parola. Se mai un giorno risponderò ai requisiti che la nazionale italiana richiede, magari andrò a giocare anch'io in nazionale. Chi lo sa? Beh, è quello che ti auguriamo. Intanto, presidente Di Mauro, c'è un altro passo da fare per permettere a atleti come Yassir di poter ambire alla nazionale, no? Assolutamente. Fra l'altro, volevo fare un piccolo inciso, ha visto come parla bene l'italiano. Lui è italiano come noi, per forza. Perfettamente, assolutamente. No, diciamo, l'obiettivo nostro è quello di spingere insieme ad altre federazioni, di permettere a chi è nato in Italia di poter vestire la maglia azzurra. Cioè, anziché aspettare il 18esimo anno di età, come prevede la legge adesso, per poi scegliere la cittadinanza, cioè, secondo me uno che è nato in Italia e ha la caratteristica deve giocare in Italia. Anche perché devo dire che molte nazioni lo fanno, e molto ci troviamo anche noi in disuguaglianza con altre nazioni perché utilizzano forse in modo esagerato questo sistema. Ecco, noi vorremmo utilizzare chi effettivamente merita di andare in nazionale ed è nato in Italia, deve anche difendere la maglia azzurra e l'Italia. Certo, senza aspettare la maggiore età, che tra l'altro no. Per Yassir comunque è lì fra pochi mesi, no Yassir, ad aprile compleanno, candelina, e questa maglia azzurra potrebbe diventare realtà, ma quello dipende poi da te, insomma, datti da fare sul campo, Sì, darò il 100%, adesso in poi darò il 100%, senti, visto che c'è una nuova motivazione in più comunque. Campionato che come sta andando, Yassir? Aiutaci a capire un po' cosa sta succedendo sul Loghi Soprano. La mappa è iniziata e si promette bene, quindi speriamo che continui così. Bene, allora Yassir Nasrallah, intanto grazie per essere stato ospite a bordo campo, mi raccomando. Grazie a voi, grazie mille. Riga dritto e sappi di meritare questa chance azzurra. E il presidente Luca Di Mauro, presidente della Federazione di Hockey Prato, grazie per questa idea questa idea che un pochino scompagina le carte e accelera un processo che secondo noi alla fine è inevitabile, no Presidente? Certo, speriamo che i nostri politici capiscono e vedono il valore, diciamo, anche della maglia azzurra, perché l'integrazione passa anche da questo, possono darci effettivamente dare la possibilità a questi atleti di poter rappresentare veramente l'Italia. Secondo me degnamente la rappresenterebbero. È quello che speriamo anche tutti noi qui a bordo campo. Grazie. A bordo campo di Dario Ricci. Oggi a bordo campo parliamo di uomini, piccoli, grandi uomini che affrontano ogni giorno in campo e non solo una partita importante, la partita per la vita, e cercano di vincerla attraverso lo sport. Ma parliamo anche di bisonti, di animali dalla pellaccia dura che non hanno certo paura degli scontri più aspri nella lotta per la sopravvivenza. È bello, ci siamo divertiti un po' su YouTube a ritrovare questo discorso. Sentite un po': Cotenna di bisonte, capo Cheyenne, racconta Jack Crabb, uno straordinario Dustin Hoffman, la leggenda del piccolo grande uomo in quel film Piccolo grande uomo del 1970 che ha contribuito a fare la storia del cinema. C'era una volta nel popolo degli uomini un guerriero che era molto basso, ma si era conquistato un nome, Piccolo uomo. Ne hai sentito parlare? No, mai nonno. Prese parte a un'spedizione di guerra contro i ponis. Però i ponis erano in molti. E uno per uno i guerrieri del popolo degli uomini furono uccisi. Solo Piccolo uomo rimase vivo. Allora i ponis gli dissero: se tu smetti di combattere, ti lasciamo andare. Ma Piccolo uomo rispose: è un bel giorno per morire. Fu così che gli tagliarono la testa. Ma lui seguitò a battersi anche senza testa. Si precipitava in mezzo ai ponis come un turbine di vento. E la sua testa, che era infilata su una lancia, cominciò a lanciare il grido di guerra. Dal canto di Cotenna di bisonte ad altri bisonti, quelli del rugby, che da pochissimi giorni hanno cominciato il campionato di Serie C italiano e che rappresentano una formazione davvero particolare. Vero Germana De Angelis, benvenuta a bordo campo. Buonasera, sì, grazie. Vero, vero. Allora, Germana De Angelis del gruppo Idee, un'associazione che promuove progetti dentro le carceri del Lazio, dei bisonti del rugby, è la presidente. Già questo è un fatto insolito, no? Presidente donna nel sport forse più macio che c'è, Germana. Beh, sì, non è così insolito, insomma. Ci sono poche donne nell'ambiente del rugby, ma insomma ce ne sono, diciamo che... per me il rugby è un po' come una famiglia, insomma ci sono cresciuta un po' sui campi da rugby, per cui per me non è così insolito. Quindi hai anche un passato da giocatrice? No, no, non da giocatrice, sono da spettatrice. Io ci sono cresciuta per contesti di amicizia, contesti familiari, insomma per me il rugby è una grande famiglia, per cui a me non fa strano, insomma, mi sento a mio agio. Insomma, già questo sì. È un elemento particolare, ancora sì. Più particolare è la storia dei bisonti del rugby. Perché? Perché sì. È una formazione che nasce in un contesto davvero singolare, no Germana? Esatto, sì, sì. Nasce all'interno del carcere di Frosinone e più esattamente nel reparto di massima sicurezza, per cui insomma ancora più complicato. Nasce così appunto, così da un progetto in cui si sono incontrati sport e associazionismo, per cui ecco un progetto che era stato messo su dalla nostra associazione Gruppo Idee e dall'ASI, che è un ente di promozione sportiva, nato un po' così come una scommessa. Abbiamo fatto un primo incontro che in realtà era solamente dimostrativo, avevamo portato una selezione di giocatori dall'esterno per far passare una giornata un po', un paio d'ore diverse a questi ragazzi, e da lì è nato tutto. A forza di lividi, di mischie e placcaggi, i bisonti 2 anni fa hanno iniziato il loro percorso e pochi giorni fa sono invece approdati in un campionato vero e proprio, no? Quella serie di amichevoli, quelle partite dimostrative sono diventate ora iscrizione a un campionato, nello specifico la Serie C. Esattamente, esattamente, con non poche difficoltà burocratiche siamo riusciti a raggiungere questo traguardo veramente importante. Naturalmente, insomma, dobbiamo ringraziare chiaramente, oltre alla direzione, per cui alla direttrice Luisa Pesante, a tutta l'amministrazione penitenziaria che ci ha dato ovviamente tutta la disponibilità possibile, e la federazione rugby che ci è venuta incontro in tutte le difficoltà che oggettivamente abbiamo potuto incontrare. Difficoltà non da poco, basti pensare, mi viene in mente quella delle trasferte per i bisonti. Esatto, sicuramente... dobbiamo ringraziare ancora di più tutte le società sportive che fanno parte del nostro girone, perché giocheranno sempre a casa nostra, ovviamente, perché appunto essendo i giocatori in una sezione di massima sicurezza non hanno la possibilità di uscire neanche con un permesso, per cui le altre società hanno accettato di venire a giocare sempre da noi sia all'andata che al ritorno, per cui insomma abbiamo trovato veramente una disponibilità immensa da parte di tutti. Direi che ancora una volta il rugby, come altri sport, ma forse anche più di altri per la sua natura, si dimostra sensibile a progetti di questo tipo, no Germana? Sì, appunto, ecco, come dicevo, la federazione veramente ha accolto questo progetto con un entusiasmo e con una disponibilità incredibile, insomma, anzi lo portano veramente come un fiore all'occhiello, perché è un progetto sociale che ha veramente una rilevanza importante. Ecco, bisogna dire che darete anche un po' di scartoffie da compilare al magistrato di turno ogni domenica, perché dovrà compilare anche tutti i permessi per i giocatori delle altre squadre per entrare nel carcere di Frosinone. Quindi, insomma... gli abbiamo dato un bel lavoro, sì, abbiamo dato sicuramente un lavoro aggiuntivo al magistrato di sorveglianza, perché settimanalmente dovranno essere autorizzate tutte le società sportive, tutti i giocatori, di volta in volta l'arbitro che viene assegnato la partita, per cui qualche ospite, pochissimi, ma insomma cercheremo di chiaramente di fare un minimo di tribuna anche, perché certo, insomma, no? Sia per la squadra che viene sia per la nostra, insomma, un minimo di tifo è importante. Pure un minimo di terzo tempo, no? Perché quello è sicuramente il terzo tempo lo facciamo, essendo noi ospitanti, facciamo il terzo tempo a tutte le partite, perché il terzo tempo è fondamentale, fa parte proprio della partita. Assolutamente, chiude la partita con l'incontro, la stretta di mano tra i giocatori è veramente importante, poi per i nostri ragazzi è ancora più importante, perché insomma è veramente un qualche cosa di eccezionale che loro non fanno mai. Ecco, ti chiedo, qual è stata la reazione del gruppo nel momento in cui gli avete detto che si sarebbe cominciato a fare, tra virgolette, concedimi, sul serio, partecipando a un campionato con impegni domenicali e squadre esterne da incontrare di volta in volta? Sono veramente motivatissimi, sono particolarmente emozionati e sono veramente motivati e contenti. Anzi, mi ha detto, ma allora facciamo sul serio, quando glielo ho detto certamente. Quindi... è per loro insomma una parentesi di normalità, ecco, diciamo. Tra l'altro si sono tesserati nella nostra squadra anche qualche giocatore esterno, diciamo, che giocava in altre società, ha rinunciato a giocare con altre società e si è tesserato con noi. Quindi abbiamo fatto anche il mercato. E questo è stato molto importante. Beh, importante, sono chiaramente in percentuale una minima parte rispetto, perché la squadra di base è quella dei detenuti. Però era importante, perché portare questa parentesi esterna proprio per rendere ancora più normale la cosa, come se fossero veramente... in quel contesto, come se non fossero tra quelle mura, insomma. So che tra l'altro il campionato è iniziato domenica scorsa, com'è andata? È andata, non contiamo i punti, diciamo che abbiamo fatto meta comunque, abbiamo fatto una meta, una bella meta, Chiaramente, insomma, i nostri hanno da lavorare ancora molto, insomma, le abbiamo detto, i punti in questa prima fase non contano. È andato tutto bene, per cui per noi è stato importante quello, perché la prima partita ci rendeva nervosi per quello che era tutto il contesto burocratico, diciamo, insomma, perché chiaramente dovevamo essere nei tempi, dovevamo rendere conto all'arbitro di tutte quante le norme fatte a dovere, negli orari, per cui tutte le persone che dovevano entrare, insomma, era una prima volta molto importante. È andato tutto bene, nessuno si è fatto male, il che è fondamentale, sono stati tutti corretti, c'è stato un bel terzo tempo, è stata una bella giornata, il tempo ci ha graziato, per cui è andata bene così. E allora diciamo che per i primi punti in classifica dovremo aspettare ancora qualche settimana, ma intanto siamo convinti che faranno bene, abbiamo un allenatore molto, molto preparato, molto in gamba, e loro sono determinati sicuramente a dare il meglio. E allora intanto un grande in bocca al lupo ai Bisonti Rugby, la formazione del carcere di Frosinone iscritta da quest'anno al campionato di Serie C, e un grande grazie a Germana De Angelis del gruppo Idei, che dei Bisonti Rugby è la presidente. Grazie a voi. Per Abbordocampo di oggi è tutto, un grazie a Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito web www.radio24.it, dove trovate anche tutte le novità del palinsesto di Radio 24, scriverci alla mail abbordocampo@radio24.it e dialogare con noi attraverso il blog di Abbordocampo. L'appuntamento come sempre per domenica prossima alle 16.30 e in replica ogni sabato mattina alle 6.15. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.